notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. E una delle patologie del Partito Romano è che passa tre quarti del tempo a discutere tra di voi sui social network. Di cazzate. Di cazzate. Sembra piuttosto arrabbiato, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Matteo Orfini, che è presidente del PD, nonché commissario del PD romano. È andato un po' a strigliarli, sapete che lì commissario del PD romano da quando c'è stato lo scandalo Mafia Capitale, oggi insomma, li accusa di occuparsi troppo di social network e di scambiarsi, avete sentito cazzate, dice lui. E stasera, come sempre, quindi faremo il bilancio della politica della settimana, che è incentrata soprattutto sulle reazioni agli attentati a Parigi, il post attentati a Parigi, la coalizione che si sta creando, gli incontri che ci sono stati. Sapete che Hollande ha fatto un tour di vari leader europei, principali leader europei, anche poi con Obama e Putin. Però ci soffermeremo anche su una candidatura ufficiale per Roma, lo sentirete tra pochissimo dai titoli, e poi anche di questa diatriba all'interno del PD, PD piuttosto movimentato, tra coloro che non sono contenti che Matteo Renzi continui a avere questo doppio incarico, sia di segretario del partito che di presidente del Consiglio. Però fra le molte cose di cui vi parlerò stasera, vorrei sottoporvi anche questo caso che ha suscitato molte polemiche, di un preside di una scuola di Rozzano in provincia di Milano che ha rimandato un concerto di Natale, o comunque dei canti religiosi che dovevano fare i bambini, canti religiosi di origine cattolica, cristiana, tipo Tu scendi dalle stelle, perché dice soprattutto dopo gli attentati di Parigi è meglio non toccare questo tasto, è meglio non fare questi canti religiosi, cerchiamo di fare una festa laica. Che cosa ne pensate? Polemiche, Salvini che ha detto adesso gli invio un presepe, intenzione di portargli un presepe per Natale lì alla scuola di Rozzano. Qual è il vostro pensiero? Effettivamente queste cose possono in qualche modo turbare o creare ulteriore tensione fra appartenenti a diverse religioni, oppure è qualcosa che appartiene alla nostra identità, che uno sia credente o no, perché alla fine il Natale può essere anche evidentemente una grande festa pagana di gioia, un momento per ritrovarsi, un momento diverso di ritualità, diverso da tutti gli altri giorni dell'anno. Cosa ne pensate? 349-238-6666, lo conoscete il numero come sempre per gli sms qui effetto note, 349-238-6666, oppure c'è sempre lì per voi comodamente la pagina Facebook di Effetto Notte. Andiamo a sentire che giornata è stata. L'omaggio di Parigi alle vittime degli attentati, Hollande promette contro ISIS nessuna pietà. Sempre tesi i rapporti tra Russia e Turchia, Erdogan vuole incontrare Putin a COP21, ma avverte non scherzi col fuoco, il leader del Cremlino fa sapere che non gli parlerà finché non chiederà scusa. Il viaggio del Papa in Africa, Francesco in Uganda dice il futuro passa dalle periferie del mondo e sottolinea la corruzione c'è anche in Vaticano. L'incontro tra Renzi e il vice di Obama, Biden ringrazia il presidente del Consiglio per il contributo dell'Italia in tema di sicurezza dall'Afghanistan all'Iraq al bacino del Mediterraneo. La polemica tra Poletti e Camusso, superiamo il contratto con l'orario di lavoro, uno strumento vecchio, afferma il ministro del lavoro, e la leader CGIL replica basta scherzare sul lavoro. Roma, Stefano Fassina, leader di Sinistra Italiana, si candida a sindaco della capitale. Ferrovie, l'assemblea nomina il nuovo CDA, Mazzoncini è il nuovo amministratore delegato. Coppia dell'acido, il PM chiede 20 anni per Martina Levato e 14 per il suo presunto complice. Addio a Luca De Filippo, erede del grande teatro napoletano, è morto a 67 anni. Partiamo quindi dall'omaggio di Parigi alle vittime degli attentati del 13 settembre. Il presidente francese Hollande ha ribadito: la Francia farà di tutto contro il terrorismo per proteggere i nostri figli. Au nom d'une cause folle et d'un dieu trahi. Uccisi in nome di un dio tradito. Così ha detto il presidente francese François Hollande nel cortile dell'Hôtel des Invalides, palazzo simbolo della storia francese, dove venivano accolti e celebrati i feriti o le vittime delle guerre e dove sono state omaggiate le 130 vittime del 13 novembre 2015, mentre sullo schermo venivano proiettati i loro volti, età media 35 anni, e pronunciati uno a uno i loro nomi. Fra loro anche l'unica italiana. Valeria Solesine, 28 anni. Contro il terrorismo, ha detto Hollande, moltiplicheremo le canzoni, i concerti, gli spettacoli, continueremo ad andare allo stadio. Questa generazione è diventata il volto della Repubblica, ha detto Hollande, ricordando altre generazioni che avevano conosciuto nel fiore dell'età eventi tragici che hanno forgiato la loro identità. poi le note solenni della Marsigliese, mentre fuori, sui balconi delle case dei francesi, sventolava la bandiera nazionale. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dopo l'arresto a Stoccarda in Germania di un uomo sospettato di aver venduto online 4 fucili d'assalto agli attentatori di Parigi, in Belgio c'è il sesto incriminato per gli attentati del 13 novembre. Continuano naturalmente le indagini. Un uomo arrestato ieri sera a Bruxelles. Dopo l'interrogatorio, il giudice ha deciso di confermare questo arresto. Ha formalizzato l'accusa di omicidio a scopo terroristico e partecipazione a organizzazione terroristica. Intanto un belga eccellente, cresciuto nel quartiere di Molenbeek, parla alla CNN. Una parte di me crede che questi attacchi fossero prevedibili. Li vedo come il segno della rabbia contro il fallimento del nostro modello di integrazione. A commentare ai microfoni della CNN gli attentati di Parigi e i relativi arresti nel quartiere di Molenbeek a Bruxelles è Vincent Kompany, calciatore belga di origini congolesi, difensore del Manchester City e capitano della nazionale belga, cresciuto proprio a Molenbeek. Amo Bruxelles, sottolinea il 29enne, è la mia città e quello che è successo è orribile, ma, aggiunge il calciatore, devo ammettere che raramente ho sentito sincera preoccupazione per i nostri quartieri, un vero progetto di sviluppo. Mi ricordo che vedevo i politici nel nostro quartiere di Molenbeek una volta ogni 6 anni quando chiedevano i nostri voti, racconta il calciatore. Io ho avuto l'opportunità di giocare a pallone, i miei genitori mi hanno aiutato, ma quando questo non succede, spiega Vincent Kompany, diventa importante il ruolo del sistema politico locale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel frattempo è sempre molto alta la tensione tra Russia e Turchia. Putin e Erdogan si scambiano dure accuse, minacce reciprocamente. C'è però un unico segnale di disgelo: nei prossimi giorni a Belgrado dovrebbero incontrarsi i due ministri della difesa. Ne parleremo di questo più tardi. Per quanto riguarda invece l'Italia, ad Ancona sono stati arrestati 3 siriani con passaporto falso. La ministra della difesa Pinotti avverte: guai a confondere i terroristi con i profughi. Il governo continua nella linea attendista e diplomatica, mentre ad Ancona vengono arrestati ed espulsi 3 siriani con passaporti falsi. Il premier Matteo Renzi incontra il vicepresidente statunitense Joe Biden. Piena sintonia di vedute, dicono da Palazzo Chigi, sulla difficile situazione geopolitica in Siria e Libia. Il ministro degli esteri Paolo Gentiloni rivela invece possibili ulteriori forme di cooperazione tra i ministeri della difesa europea, mentre in Libia l'Italia si assumerà le proprie responsabilità. Il ministro della difesa Roberta Pinotti invita a evitare generalizzazioni. Guai a confondere i profughi con i terroristi, perché chi scappa dalla guerra ha una dimensione di paura, non può essere confuso. Nello stesso tempo, attenzione a tutti quelli che possono essere i possibili spazi di infiltrazione. Intanto ad Ancona, fermati dalla Polfer, 3 siriani con passaporti falsi comprati in Turchia, erano diretti a Milano, processati per direttissima, verranno espulsi dall'Italia. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E oggi il presidente del Consiglio Renzi ha incontrato a Roma il vicepresidente americano Joe Biden, il quale ha ringraziato Renzi per il contributo dell'Italia, dice, in tema di sicurezza, dall'Afghanistan all'Iraq al bacino del Mediterraneo. Questo lo fa sapere la Casa Bianca. Per quanto riguarda la politica, c'è una polemica che è emersa soprattutto nelle ultime ore tra Poletti e Camusso, tra il ministro del lavoro e la leader CGIL. Superiamo il contratto con l'orario di lavoro, uno strumento vecchio, dice Poletti, guardiamo più alla produzione. Questo l'ha detto alla LUISS davanti agli studenti. E vi ricordate, dopo la frase che avevo anche sottoposto ieri, quando diceva che gli studenti ci tengono a laurearsi tardi ma poi dopo con voti ottimi però poi non trovano lavoro, la leader CGIL ha detto: bisogna smettere di scherzare quando si parla di temi del lavoro, bisogna ricordarsi che la maggior parte delle persone fa un lavoro faticoso nelle catene di montaggio, le infermiere negli ospedali, la raccolta nelle campagne, dove il tempo è fondamentale per salvaguardare anche le condizioni anche di salute dei lavoratori. E poi vi dicevo l'annuncio di Stefano Fassina in vista delle amministrative di primavera: si candida l'ex ministro dell'economia, l'ex vice ministro dell'economia del governo Letta, si candida come prossimo sindaco di Roma. Anche di questo parleremo. E adesso il viaggio del Papa in Africa, casi di corruzione ovunque, dice il Papa, anche in Vaticano. Con questa frase Francesco ha invitato gli studenti dell'Uganda ad agire per il bene della collettività. Il pontefice ha affrontato anche il tema dei migranti. Secondo Francesco, l'Africa orientale è un modello esemplare di accoglienza. Il Papa ha detto nell'incontro con i catechisti, ultima della tappa di Kangemi, ha ribadito l'importanza del lavoro onesto. So che il vostro lavoro, benché gratificante, non è facile. Vi incoraggio perciò a perseverare e chiedo ai vostri vescovi e sacerdoti di aiutarvi con una formazione dottrinale, spirituale e pastorale in grado di rendervi sempre più efficaci nell'azione. Anche quando il compito appare gravoso, le risorse risultano troppo poche e gli ostacoli troppo grandi. Vi farà bene ricordare che il vostro è un lavoro santo. E a proposito di Ferrovie dello Stato, l'Assemblea ha nominato il nuovo CDA, ha invitato il nuovo Consiglio a nominare Renato Mazzoncini quale amministratore delegato della società con ampie deleghe operative, lo si legge in una nota del Ministero dell'Economia. E adesso con la cronaca, Rodolfo Corazzo, il gioielliere che martedì sera a Rodano nel Milanese ha ucciso un rapinatore albanese, è entrato nella sua casa insieme a due complici, ancora in fuga, è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati dalla Procura per eccesso colposo in legittima difesa, ma fanno sapere che è un atto tecnico dovuto a sua garanzia. E a Milano, al Palazzo di Giustizia, nuova inchiesta di condanna per Martina Levato, la bocconiana accusata per le aggressioni con l'acido. Il PM ha chiesto per lei 20 anni. E siamo in chiusura con un lutto che c'è stato, un grande lutto nel mondo del teatro, dello spettacolo. È morto a 67 anni per un tumore Luca De Filippo, erede del grande Edoardo, alla cui opera si era sempre dedicato, capace però di uscire da, nonostante l'eredità ingombrante, da questo cono d'ombra e diventare a sua volta un grande protagonista del teatro napoletano, ovvero Adriana Fracchia. Ciao Adriana. Ciao Roberta, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, Luca De Filippo era consapevole, fiero di essere l'erede di una terza generazione di una famiglia che ha fatto la storia del teatro italiano e con Edoardo del teatro mondiale. Lo ha scritto in una nota la famiglia Luca De Filippo, ma siamo tutti d'accordo su questo. E non deve essere stato facile per lui uscire dall'ombra di un padre come Edoardo, indiscusso maestro della scena. Ma in 60 anni di carriera è riuscito a dimostrare tutta la sua personalità e il suo talento, pur senza mai smettere di portare avanti e riproporre il lavoro paterno, alternandolo anche con testi del teatro contemporaneo. Luca De Filippo, ricordiamo, era nato a Roma il 3 giugno del 1948 dalla relazione tra Edoardo e la soubrette Thea Prandi, morta nel 1961. Sul palco è salito molto presto, per la prima volta a 7 anni, nei panni di Peppe Niello in Miseria e nobiltà scritta dal nonno Edoardo Scarpetta, il capostipite della dinastia teatrale degli Scarpetta De Filippo. Ma il vero debutto fu a 20 anni col Figlio di Pulcinella, scritto da Edoardo, dove scelse di usare lo pseudonimo Luca Della Porta perché temeva di apparire come un raccomandato. Questo la dice lunga sulla semplicità di Luca De Filippo. Col padre lavorò sia in teatro che in TV, in varie commedie, e nell'81, quando Edoardo decise di ritirarsi, fondò una sua compagnia, la Compagnia di Teatro di Luca De Filippo, con cui affrontò buona parte delle commedie paterne e degli Scarpetta. Proprio quest'anno aveva accettato di dirigere la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Napoli Teatro Nazionale e dal 2008 era presidente della Fondazione Edoardo De Filippo, che si è costituita dopo la donazione del Teatro San Ferdinando alla città di Napoli da parte della famiglia De Filippo. Chi vorrà dare un ultimo saluto a Luca De Filippo potrà farlo, lo fa sapere la famiglia, lunedì al Teatro Argentina di Roma dalle 14 alle 18, mentre alle 16.30 verrà ricordato dai suoi amici, e il sindaco di Napoli De Magistris ha disposto invece la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei suoi funerali. Grazie Adriana Fracchia. Ciao Adriana. Grazie, ciao Roberto. E adesso invece, prima di lasciarci brevemente per aggiornare chi sta viaggiando, volevo cominciare a leggere qualche vostro messaggio su questa polemica appunto sorta dalla decisione del preside della scuola di Rozzano vicino Milano. Marzia dice: il Natale è una festa cristiana non pagana, il preside in buona fede è caduto nella trappola, non si difende annullando le tradizioni, semmai proponendo la possibilità di altri culti di cantare anch'essi il buon Natale sia per tutti. E poi quindi dice un altro ascoltatore al 349-238-6666: se mi turba vedere che pregano i musulmani, loro allora non lo fanno per mio rispetto. E poi ancora un altro messaggio: la scuola, come lo Stato deve essere laica, la forza dell'Occidente nell'illuminismo, non in tu scendi dalle stelle ore del cielo, tolleranza e libertà a partire dalla scuola. Continuate sia sulla pagina Facebook di Effettonote sia al 349-238-6666. Tra poco cominciamo con gli ospiti. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. vi presenta Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di nuovo insieme, mentre tra pochissimo cominceremo a fare il bilancio della politica della settimana. Guardavo ancora i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666, che è il numero per i messaggi. Ogni tanto lo ripeto perché qualcuno accende la radio non puntualmente alle 21. Guardavo a proposito di questa polemica, vi dicevo che viene dalla decisione del preside di una scuola di Rozzano nel Milanese di non fare canti tipici della tradizione natalizia cristiana, insomma, che tu scendi dalle stelle, è o re del cielo, eccetera, dice, per rispettare anche gli altri bambini, soprattutto dopo gli attentati di Parigi. Ho letto già diversi messaggi prima, vado avanti. Preside, è stata un'iniziativa demenziale. Natale, la natività di Cristo, non la festa della Coca-Cola. Che insegnamento si dà ai ragazzi? E poi Michele, il Natale è una festa religiosa, oggi è diventata una festa del consumismo, non mi sembra da condividere la decisione del preside. E poi Luis scrive, il Natale contempla i canti natalizi, il presepe, l'albero e così via. Chi emigra in Italia o rispetta il bel paese o se ne vada. Ancora un preside, dice Sandro, che non è in grado di prendersi la responsabilità di una decisione in difesa della nostra cultura, ha solo paura forse di ritorsioni. In ogni caso non deve fare il preside, gli fa solo comodo lo stipendio del preside, dice questo ascoltatore. Adesso vi ricordo brevemente le notizie più importanti e poi cominciamo ad andare al cuore degli argomenti. Accuse, minacce e tensione ancora alle stelle tra Mosca e Ankara. Intanto Renzi dice, per combattere l'ISIS prima di bombardare serve una strategia per il dopo. L'addio ai morti di Parigi, oggi è stata la celebrazione in Francia e Olanda. Il presidente francese dice senza pietà contro l'ISIS, ma c'è anche chi ha boicottato la cerimonia perché ha ritenuto, avendo perso delle persone, che le autorità e le forze dell'ordine francesi non abbiano fatto a sufficienza. Parigi intanto è blindata perché arrivano 150 leader dal mondo per il vertice sul clima che parte il 30 novembre. Il Papa in Africa dice la corruzione c'è anche in Vaticano e invita i giovani, dice rifiutate il cammino della morte, i giovani africani. Poi questa polemica tra Poletti e la leader CGIL Camusso, Poletti che dice ora l'orario del lavoro ormai è un attrezzo vecchio e la Camusso che dice basta scherzare sul lavoro. Aggredite le aggressioni con l'acido, chiesti 20 anni per Martina Levato. E poi in Italia culle sempre più vuote, è il paese dai capelli grigi, dice l'Istat. Allora, partiamo quindi con questo bilancio delle notizie relative alla politica italiana di questa settimana. A volte dico il meglio, il peggio, dipende dai punti di vista. Saluto Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Ciao Guido. Buonasera, buonasera a voi. Allora, tra i tanti temi, adesso enuncio velocemente l'allerta terrorismo dopo gli attentati di Parigi e quindi le reazioni del governo italiano. Poi la polemica che riguarda Bassolino, ex sindaco di Napoli, che si ricandida, e i grossi malumori nel PD che cerca di ostacolarlo, mentre la minoranza PD dice non si possono fare delle regole, delle norme ad personam, perché la vice segretaria del PD Serracchiani aveva proposto di fare una norma che vietasse a chi era già stato sindaco di presentarsi alle primarie. Poi il ventilato accordo tra PD e Nuovo Centrodestra per trovare insieme dei candidati per le prossime elezioni comunali, i malumori che serpeggiano la minoranza PD a proposito del doppio incarico di Renzi. Qualcuno sta cominciando a chiedere, insomma, non può fare contemporaneamente il segretario e il presidente del consiglio. E poi l'autocandidatura a sindaco di Roma di Stefano Fassina, che ha fatto partire ufficialmente oggi la sua campagna, la sua candidatura, insomma molte altre cose. Poi questa polemica, dicevo, tra Poletti e la Camusso. Però Guido Gentili, ti faccio sentire un po' una sventagliata di file, di passaggi, per ricostruire un po' quella che è stata la reazione in questa settimana dei vari rappresentanti del governo italiano relativamente al rischio terrorismo. Sentiamo intanto Alfano, ministro dell'Interno. Ci sono i professionisti dell'ansia, cioè quelli che non dicono la cosa giusta, ossia signori stiamo attenti perché il momento è delicato e la celebrazione di questo giubileo richiamerà le attenzioni non solo delle persone per bene ma anche dei potenziali terroristi, che è dire una cosa saggia. No, è mettere ansia. Ansia, voce tremante, nel senso di dire, Alfano ha detto rafforziamo l'intelligence ma non creiamo allarmismo. E poi il ministro degli esteri Gentiloni, che dice in un primo momento siamo sotto attacco, ma poi dice anche sì, capisco Olanda, ma sentiamo. Semplicemente io credo dobbiamo dire che siamo sotto attacco da parte del terrorismo e che dobbiamo reagire a questo attacco combattendo il terrorismo. Capisco perfettamente perché François Hollande abbia usato, iniziando proprio il suo intervento, la parola «la Francia è in guerra», E capisco altrettanto bene perché i leader di tutti gli altri grandi paesi occidentali non abbiano, dagli Stati Uniti al Regno Unito, dall'Italia alla Germania, non abbiano usato questo tipo di espressione. Quindi noi non usiamo questo tipo di espressione, e anche la ministra Pinotti ha ribadito: non siamo in guerra. Allora sentiamo il piano d'azione di Renzi che ha presentato questa settimana. L'espressione pacta sunt servanda è stata coniata qui, a Roma. Un motivo ci sarà. Restiamo dunque nei limiti delle regole europee, ma vogliamo chiedere con forza all'Europa di non dimenticare mai che c'è da rispettare un patto di umanità che vale altrettanto, se non di più, del patto di stabilità. Andiamo nei dettagli però di questo piano d'azione. 2 miliardi di euro per dare risposte ai professionisti della sicurezza e ai professionisti dell'educazione. In altri termini, 1 miliardo di euro sarà investito sulla sicurezza, 1 miliardo di euro sulla nostra identità culturale. E poi sentiamo anche un po' di francese di Renzi quando ha incontrato Hollande ieri, sempre in questo tour di Hollande che cerca di allargare l'alleanza, cerca solidarietà, l'alleanza contro l'ISIS, in un passaggio alla Sorbona in realtà qui Renzi. È realité, la première fois che Petrarca e Boccaccio si sono rencontrés a Florence, la ville était en proie à la première crise financière du temps et à la peste. Donc c'est très intéressant que l'humanisme est la réponse à ces situations de difficulté. Ecco, abbiamo sentito anche un po' di francese di Renzi. Per chiudere questa prima parte, l'opposizione con Brunetta, cosa ne pensa di questo incontro di Renzi con Hollande? Ma non si fa così imbucandosi all'ultimo momento per non star fuori dalla porta a prendere un caffè per un quarto d'ora da Hollande. Non è così che si dà un senso alla presenza italiana a livello internazionale. E cosa dobbiamo fare allora, Guido Gentili? Insomma, da tutto questo collage che avete mandato in onda, effettivamente, esce un po' l'immagine di una situazione, come dire, molto fluida almeno. Ecco. E effettivamente è difficile camminare su questi temi del terrorismo per un governo che ha anche la responsabilità della guida del paese in un momento molto delicato. Certo è che non si può giocare troppo con le parole, perché il fatto di dire siamo in guerra ma non ci dobbiamo sentire in guerra, o viceversa a seconda, diciamo, dei gusti, io credo che non dobbiamo avere delle paure. La parola guerra, in quanto parola orrenda e che ovviamente non piace a nessuno, è comunque scritta nella nostra Costituzione, voglio dire, quindi non dobbiamo avere delle parole. E cioè, siamo sotto attacco del mondo occidentale, non solo l'Italia è sotto attacco, diciamo, del terrorismo, e bisogna trovare delle soluzioni politiche razionali per cercare di contrastare questo fenomeno. Credo che questa sia la bussola, diciamo, che noi dobbiamo avere in mano, e deve averla, diciamo, il governo, che capisco le difficoltà di muoversi in uno scacchiere internazionale che è diventato molto molto complicato, perché non siamo ai tempi della guerra fredda, ai tempi del muro di Berlino, voglio dire. E non solo il muro non c'è più, ma la situazione, come noi sappiamo, in Medio Oriente è una situazione molto complicata, lo vediamo tutti i giorni, guardiamo quello che è successo tra Russia e Turchia come ultimo episodio. Insomma, quindi è difficile muoversi, però è anche vero che non possiamo rimanere fuori da questa partita, e quindi dobbiamo trovare a livello diplomatico e a livello politico delle soluzioni che ci consentano anche di rimanere in questa partita e di farlo, diciamo, a testa alta. L'Italia deve essere considerato, è un paese fondatore dell'Europa, è l'ottava potenza industriale del mondo, è necessario che anche su questo terreno presente a testa alta. Comunque leggo ancora questa dichiarazione di Renzi, di nuovo è stata rimandata dall'ANSA: la lotta al terrorismo e fanatismo temo durerà a lungo, perciò non ha senso bombardare senza una chiara strategia, e perciò la linea scelta dal governo italiano in risposta agli attacchi di Parigi non solo è giusta ma non ha alternative. Adesso invece passiamo a un altro tema, Guido Gentili, che è quello della candidatura di Bassolino. Vuole tornare a essere sindaco di Napoli, non certo con l'appoggio e col consenso del PD, anche se la minoranza PD dice: cosa fate, lo bloccate, mettete questa regola che non ci si può ricandidare alle primarie se si è già stati sindaci solo così ad personam, solo per Bassolino. Sentiamo cosa replica a questa proposta Bassolino. Hanno parlato due vicesegretari, ma due vicesegretari non fanno un segretario. Il segretario non ha parlato ancora. Questo è geniale. E troverei singolare. Matteo Renzi, appena un mese fa, ha detto le regole non si cambiano. Io considero quello un infortunio politico, e cioè di mettere norme non previste in questo momento, quando il gioco è già cominciato. Quello che dovrebbe essere l'arbitro dice chi possono essere i giocatori che stanno in campo e chi i giocatori che non dovrebbero essere. A me sembra un autogol spaventoso. Chi ha ragione, Guido? Ma sul piano generale ha ragione Bassolino, nel senso che le regole non si cambiano mentre il gioco è già cominciato. Mm. E questo vale per, le, diciamo, per Bassolino oggi, ma vale in tutte le circostanze che diciamo, si pongono queste condizioni politiche. E detto questo, la situazione che riguarda Bassolino è diciamo, lo specchio di una difficoltà enorme che attraversa il Partito Democratico in questo momento, perché abbiamo visto anche le polemiche che ci sono state su De Luca, no? Nei giorni scorsi abbiamo visto le polemiche che ci sono riguardo al governatore della Sicilia Crocetta, che sono in corso. Insomma, c'è una difficoltà a individuare una candidatura per il sindaco a Roma, c'è una difficoltà per individuare la candidatura per il sindaco di Milano. Quindi il partito è in un momento di difficoltà e non mi meravigliano, e qui ritorno anche a uno a un'ispezione dei servizi che avete mandato in onda, non mi meraviglia nemmeno le polemiche che ci sono sulla doppia sul doppio ruolo di Renzi, Premier da un lato e segretario del partito dall'altro. Anche questo non è una cosa del tutto nuova nel panorama politico italiano, perché ricordo anche accadde diciamo la stessa cosa a Cirico De Mita negli anni 80, alla fine degli anni 80, su questo terreno, le polemiche ci furono su questo, e anche questo diciamo è indice di una situazione di difficoltà e di vischiosità all'interno del Partito Democratico in questo momento. Quindi direi che sono tutti evidenze di uno stato di difficoltà del partito di maggioranza relativa, che in questo momento ha anche segretario del partito che è presidente del Consiglio, il quale si trova a dover tra l'altro agire nelle condizioni difficili che diciamo prima, cioè in un contesto internazionale molto complicato. Quindi difficoltà che tu anche avevi un po' accennato, poi lo portano a aver ventilato questo possibile accordo tra PD e Nuovo Centrodestra per le candidature a Milano, a Napoli. Sentiamo però Lupi, Maurizio Lupi del Nuovo Centrodestra, che smentisce. Da parte del Nuovo Centrodestra non c'è mai stata e non c'è e non ci sarà nessuna intenzione di partecipare alle primarie del Partito Democratico. Territorio anche un po' sprezzato, mi è sembrato Lupi in questo senso. Senti Guido Gentili, però passiamo alla candidatura di Fassina, Stefano Fassina, ex vice ministro dell'economia del governo Letta, poi passato a Sinistra Italiana, che dice io mi candido per Roma. Sono a disposizione per assumermi in prima persona la responsabilità del nostro cammino e della sfida per il governo di Roma. E tra l'altro Fassina ha anche detto al ballottaggio nelle varie città, dice, dove non possiamo vincere in tutte, non possiamo vincere in tutte le città in cui siamo presenti, dice vi possono essere dei casi in cui non arriveremo al ballottaggio, in quei casi non escludo la possibilità di sostenere un candidato del Movimento 5 Stelle. Questa cosa l'aveva detta anche tempo fa qui Effetto Notte, e gli aveva risposto sempre qui Effetto Notte nella stessa puntata Soria del Movimento 5 Stelle. Noi, come tutti ormai hanno ben capito ed è ormai più che risaputo, in merito ad alleanze di vario tipo e di varia natura, naturalmente noi ci stiamo. Noi stiamo a guardare alla prova dei voti, che è sempre la questione che conta di più. Noi presentiamo proposte emendative, siamo 91 deputati alla Camera e abbiamo un gruppo consistente anche al Senato di 36 senatori. Presentiamo proposte emendative, progetti, e quando gli altri gruppi politici vogliono votarli, noi siamo siamo lì proprio per fare in modo che tutti possano votare le nostre proposte emendative e quindi si parli del merito delle questioni, dei progetti che possano in qualche modo dare benefici ai cittadini. Diciamo, era stato abbastanza soft, però poco prima era uscita una nota in cui il Movimento 5 Stelle diceva non siamo per le ammucchiate. Vuoi fare un brevissimo commento su questa candidatura di Fassina? Io credo che oggettivamente non abbia molte possibilità di successo questa candidatura a sindaco di Roma di Fassina, cioè non ci sono i numeri, almeno oggi sulla carta francamente non si vedono proprio. Uno spessore, una mossa che ha uno spessore politico che riporta alle difficoltà del Partito Democratico, alle tensioni interne e che diciamo se così dovesse restare questa opzione di Fassina, certamente anche in termini percentuali diciamo avrà un effetto di sottrarre dei voti al candidato del Partito Democratico, su questo non c'è dubbio. Guido, per chiudere, abbiamo ancora credo 22 secondi, vuoi fare un commento su Poletti Camusso o sui canti di Natale nella scuola come di Rossano? Preferisci. Allora, 22 secondi ne facciamo 10 per parte. Allora, sì, 10. I canti di Natale mi sembra che l'iniziativa del Presidente sia una sciocchezza, perché diciamo, il Natale viene festeggiato in tutto il mondo, dagli Stati Uniti e altrove, quindi dire, mi sembra che sia veramente una sciocchezza e fa parte del nostro patrimonio culturale italiano e occidentale. E per quanto riguarda Camusso, beh, insomma, sull'orario di lavoro effettivamente non si può scherzare, per carità, però non facciamo ogni volta un tabù su cui non si può discutere, perché dobbiamo avere il coraggio di poter discutere di tutto. Grazie Guido Gentili, abbiamo discusso grazie a lungo e ti ringrazio, grazie, buon fine settimana. Prima di lasciarci per una breve pausa naturalmente, leggo questo messaggio di Gabriele da Modena: ha ragione il preside, le celebrazioni a scuola devono essere laiche per il rispetto di tutti. E poi molti altri messaggi che leggerò dopo sulla pagina Facebook di Effetto Note e sempre anche al 349-238-6666. State ascoltando un programma offerto da Creo Kitchens, finalmente la cucina di qualità, ora alla portata di tutti. Gruppo Lube. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E adesso sempre con le notizie proseguiamo, Roberta Giordano sempre con voi, i vostri messaggi che arrivano alla pagina Facebook di Effetto Notte che è sempre lì per voi, giorno e notte, poi i messaggi, gli sms al 349-238-6666. Stasera vi ho lanciato questa polemica emersa dalla decisione di un preside di una scuola nel milanese di Rozzano di rinviare una specie di festa di Natale perché c'erano canti religiosi come Tu scendi dalle stelle e gli altri, insomma, che sono abituati a cantare i bambini durante le feste a scuola, perché dice bisogna rispettare soprattutto dopo gli attentati di Parigi anche gli altri bambini che non sono di fede cristiana. Ho letto molti vostri messaggi sulla pagina Facebook di Cennino che dice: la cosa mi lascia completamente indifferente, le canzoni di Natale e quelle dei Puffi uguali sono, insomma, non proprio. Maurizia: al di là del fatto che quella che la canzoncina possa essere bella o brutta, credo che ci sia una terribile confusione, integrare e rispettare le altre culture e religioni non vuol dire annullare la propria. Elena scrive: la scuola è laica ma un canto è solo un canto, se credi ti commuovi, se non credi lo ascolti e basta. Adesso vi ricordo le notizie più importanti e poi affronteremo un altro tema. L'omaggio di Parigi alle vittime degli attentati. Hollande promette: contro l'ISIS nessuna pietà. Sempre tesi i rapporti tra Russia e Turchia. Erdogan vuole incontrare Putin a COP21 ma avverte: non scherzi col fuoco. Il leader del Cremlino fa sapere che non gli parlerà finché non chiederà scusa. Di questo parleremo tra poco. Il viaggio del Papa in Africa. Francesco in Uganda dice: il futuro passa dalle periferie del mondo e sottolinea la corruzione c'è anche in Vaticano. L'incontro tra Renzi e il vice di Obama. Biden ringrazia il Presidente del Consiglio per il contributo dell'Italia in tema di sicurezza dall'Afghanistan all'Iraq al bacino del Mediterraneo. La polemica tra Poletti e Camusso: superiamo il contratto con l'orario di lavoro, uno strumento vecchio, dice il ministro del lavoro, e la leader da CGIL replica: basta scherzare sul tema. E poi Roma, Stefano Fassina, leader di Sinistra Italiana, si candida a sindaco della capitale. Coppia dell'acido chiesta dal PM per Martina Levato, 20 anni e 14 per il presunto complice. Poi l'addio a Luca De Filippo, erede del grande teatro napoletano, è morto a 67 anni. Dunque, la tensione è sempre alta nei rapporti tra Russia e Turchia dopo l'abbattimento del jet russo giorni fa da parte turca. Volano ormai da giorni minacce e accuse reciprocamente. Vi ricordate che Ankara aveva giustificato questo abbattimento del jet dicendo che aveva violato lo spazio aereo turco. Putin però aveva detto che non era in zona turca ma siriana e l'ha definita una pugnalata, un tradimento da parte della Turchia. Obama però aveva preso il presidente americano subito le parti della Turchia, che essendo alleato strategico della NATO ma anche dell'Europa, la Turchia. E tra ieri e oggi si è assistito, al di là anche della serietà per carità di questa crisi, a una specie di schermaglia come all'interno di una coppia, no? Con Erdogan che ieri ha detto di aver chiamato più volte Putin al telefono, dice ma Putin non mi ha mai risposto, aggiungendo che non aveva però nessuna intenzione Erdogan, presidente turco, di chiedere scusa a Putin, ma che se avesse saputo che il jet era russo non l'avrebbe abbattuto. Questo ci dice molto su quanto insomma gli strumenti che hanno siano efficaci, non poter riconoscere un aereo da che parte stia. Comunque oggi dal Cremlino arriva questa risposta: Vladimir Putin non ha risposto alle richieste di Erdogan di avere una conversazione telefonica perché non c'è stata la prontezza di chiedere scusa, una delle cose più elementari, porgere scusa, dicono dal Cremlino. E poi Erdogan da una parte vuole incontrare, fa sapere Putin a Parigi a margine della conferenza COP21 sul clima che ci sarà dal 30 novembre, però dice attenzione Putin a non scherzare con il fuoco. Putin intanto ha avviato da parte sua diverse ritorsioni economico-diplomatiche nei confronti della Turchia e per questo chiamo in causa Marco Barbonaglia, il nostro Marco Barbonaglia dalla Turchia. Ciao Marco. Ciao Roberta. Marco, mi dici, vorrei sapere come sta reagendo la popolazione anche turca, l'opinione pubblica, perché fra le altre cose Putin ha chiesto, ci sono molti russi che vanno come turisti in Turchia, di non andarci e anche di venir via quelli che già sono presenti, oltre alle varie cose che ha chiesto. Sì, in questa schermaglia che tu hai parlato, innanzitutto è utile ricordare che Erdogan e Putin sono due personaggi che comunque hanno diversi tratti in comune e che rappresentano entrambi bene la figura dell'uomo forte, in due paesi che si identificano perfettamente in queste figure di leader. Il problema è che quando due personaggi di questo tipo si scontrano, nessuno di due ovviamente è pronto a fare marcia indietro. Per quanto riguarda le ripercussioni economiche, che possono essere molto gravi per la Turchia, proprio in relazione a quello che stavi dicendo sul turismo, vale la pena ricordare che il flusso di turisti russi vale per esempio 4 miliardi di dollari circa l'anno. Quindi stiamo parlando di ripercussioni che potrebbero essere pesanti. E oltretutto arrivano nel giorno in cui c'è una, proprio oggi c'è stata una notizia, l'Istituto di Statistica turco ha diffuso una serie di indici che mostrano una crescente fiducia della popolazione nella situazione economica. Un effetto della vittoria del partito di Erdogan che perlomeno portava con sé una sensazione di rinnovata stabilità politica, ma a questo punto è una notizia da sapore quasi beffardo perché fotografa una situazione che rischia di cambiare, di peggiorare radicalmente e anche in fretta. Da questo punto di vista bisogna pensare che la Turchia, come reazione a tutto quello che sta succedendo, nonostante la schiacciante vittoria di Erdogan alle elezioni, è comunque un paese nel quale l'opinione pubblica è spaccata. Certo, il 50% dei votanti ha scelto di confermare la fiducia all'attuale presidente, ma l'altra metà della nazione non è con lui. Da chi non lo ha votato è difficile trovare qualcuno che non guardi con preoccupazione a quello che sta succedendo e che non critichi aspramente quello che è accaduto. Però bisogna tenere in considerazione, come sempre, il forte nazionalismo in un paese come la Turchia, del quale Erdogan, uomo forte, come Putin, dicevamo del resto, è paladino e campione. Per cui non mancano anche sostenitori della linea del presidente. In questo senso io ho parlato in questi giorni con diverse persone che avevano idee differenti, ma che più o meno oscillavano tra queste due posizioni. Naturalmente bisognerà prevedere, qualora ci fossero queste ripercussioni, qualora si proseguisse su questa linea e per esempio sul piano energetico, visto che la Turchia dipende dalle forniture di gas della Russia, nel caso in cui i turchi debbano pagare una bolletta del gas particolarmente salata quest'inverno, bisogna vedere che effetto poi avrà questo nel momento in cui accadrà. Già, grazie Marco Barbonaglia dalla Turchia. Ciao Marco. Ciao. Viabilità. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ed ecco riepilogate le principali in pochi secondi: accuse, minacce e tensioni alle stelle tra Mosca e Ankara, ne abbiamo appena parlato. Poi la Francia, Parigi, che oggi ha dato l'addio ai morti, alle vittime degli attentati, con Olanda che ha promesso nessuna pietà contro l'ISIS, e Parigi che è blindata perché arrivano i 150 leader dal mondo per il vertice sul clima che parte il 30 novembre. Il Papa nel suo viaggio dall'Africa, che dice la corruzione è anche in Vaticano e incita i giovani a rifiutare il cammino di morte. Poi questa polemica tra Poletti, ministro del lavoro, e la leader CGIL Camusso sull'orario di lavoro. Adesso parliamo invece con Enrico Pagliarini, il nostro Enrico, che poi troverete subito dopo Effetto Notte col suo 2024, la tecnologia portata di mano. Ciao Enrico. Ciao a tutti, buonasera. Di quello che ha detto il ministro della giustizia Orlando ieri in un vertice sul terrorismo a proposito della chat e anche della PlayStation. Ormai qualunque tipo di strumento supportato dalla rete o qualunque strumento, da quelli che consentono di scaricare la musica, quelli che consentono di, hanno all'attere diciamo una chat. Quella chat può essere utilizzata anche per scambiare informazioni che non hanno niente a che vedere con l'oggetto per cui è ipotizzata quella chat, e questo naturalmente crea molte più possibilità che devono essere fronteggiate con nuove tecnologie. Molto semplicemente, Enrico, spiegaci perché la PlayStation potrebbe essere strumento per comunicare tra i terroristi. Beh, anche perché anche la PlayStation ha una chat, c'è cioè la possibilità di condividere messaggi voce, cioè si può anche parlare all'interno della PlayStation, perché da ormai moltissimi anni tutte le console da videogioco permettono di condividere i giochi, giocare con un'altra persona che sta dall'altra parte del mondo. Quindi evidentemente si può sicuramente ci si può scambiare un messaggio, però va anche detto che molto difficilmente i terroristi usano questi strumenti e dicono esplicitamente, si mettono d'accordo con parole esplicite su un eventuale attacco. Cioè molto probabilmente se uno deve usare la PlayStation ed è un terrorista dirà andiamo a raccogliere le margherite domani pomeriggio. No, andiamo a far funghi, insomma. Quindi nessun rischio che la PlayStation diventi in mano dei ragazzini, delle persone, cioè, strumento. Allora, no, cioè il rischio c'è, però devo anche dire che questa storia della PlayStation gira cioè, dal giorno dopo degli attacchi, ma lo aveva detto ben prima degli attacchi, qualche giorno prima, il ministro Jambon, ministro belga, parlando in generale del terrorismo, aveva fatto riferimento alla possibilità che si usassero anche strumenti come la PlayStation 4. Ma era una pura ipotesi. Dal giorno dopo gli attentati è cominciata a diffondersi questa voce, ma non c'è nessuna conferma che questo sia stato uno degli strumenti utilizzati. Certo, è possibile, ma potrebbe anche non essere vero. Speriamo. Enrico Pagliarini lo ritrovate poi dopo. È lucido e brillante dopo Effetto Notte. Ciao Enrico. Europa 24 notte. COP21, la 21esima conferenza delle Nazioni Unite sul clima, che aprirà lunedì 30 novembre a Parigi e che ha l'obiettivo per tutti i paesi chiamati a partecipare di mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto dei 2 gradi da qui alla fine del secolo. L'Unione Europea punta a un accordo globale vincolante al termine della conferenza di Parigi. A dirlo è il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. In effetti l'Unione Europea è stata la prima a definire il suo impegno a favore del clima quando nel marzo scorso presentò una lista di intenti, poi via via discussa e perfezionata da tutti gli Stati membri. L'obiettivo resta quello di mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto di 2 gradi da qui alla fine del secolo. Parigi è dunque una grande opportunità storica, ma anche economica, che dovrà trasformarsi in impegno vincolante, che non si possa più tornare indietro, è chiaro a tutti. Monica Frassoni, presidente dei Verdi Europei. Siamo veramente a un momento cruciale perché adesso dobbiamo fare delle scelte di investimento che poi dureranno per i prossimi decenni, e se noi non abbiamo delle leggi, in particolare a livello europeo, che orientano lo sviluppo economico, un po' come è stato con il pacchetto energia che ha detto che bisognava fare le rinnovabili, temo che in Europa rimarremo indietro rispetto ad altri continenti. La Cina fa tutto, fa carbone, fa nucleare, ma fa anche tantissime rinnovabili. Quindi diciamo che loro sono sia il buono e il cattivo. Noi non abbiamo questo spazio, noi dobbiamo scegliere adesso di fare le rinnovabili. Tecnicamente non ci sono problemi, noi potremmo essere nel 2050 al 100% di rinnovabili combinato con l'efficienza energetica e le tecnologie energie sono lì, e la cosa che è incredibile è che sono soprattutto gli europei che hanno sviluppato queste tecnologie e che oggi tornano indietro illudendosi che cose tipo lo shale gas o la costruzione di grandi gasdotti eccetera sia la risposta alla nostra dipendenza energetica. Non lo è, e quindi credo che ci sia una vera battaglia politica, culturale, ma anche economica da parte dei settori dell'economia che devono un po' svegliarsi. Quello di COP21 sarà un momento di un lungo processo di cambiamento che è già in atto, aggiunge Giovanni Lavia, presidente della Commissione per l'Ambiente in seno al Parlamento europeo. Non è l'accordo di un giorno, l'accordo che firma a Parigi che cambierà il risultato finale, ma quello di Parigi, insieme a tutti gli sforzi che sono stati compiuti quest'anno da tutti i paesi, ci stanno anche in questo caso indicando una strada positiva verso la quale dobbiamo muoverci tutti quanti insieme. Dunque la svolta è soprattutto economica. Cambieranno tante cose se la riduzione delle emissioni di gas serra da qui al 2050 sarà vincolante. Nell'arco di qualche decennio si assisterà a un cambio di paradigma economico. Il modello decarbonificato si affermerà dando vita a nuovi posti di lavoro e a nuove figure professionali. Nascerà dunque un mondo industriale che potrebbe sfruttare solo le energie rinnovabili. Le azioni per salvaguardare il pianeta dai cambiamenti climatici rappresentano un'enorme opportunità anche dal punto di vista economico. Si tratta di una rivoluzione industriale che garantirà nuovo sviluppo e lavoro per i prossimi decenni, dice il segretario esecutivo delle Nazioni Unite per il Clima, Cristiana Figueres. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E ora è tempo di sapere che tempo farà col nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo, portatore sano di sole. È vero, Paolo? Buonasera, ma certo, questa volta ottime notizie a darvi, perché arriviamo da due giorni in realtà abbastanza complicati al centro-sud. Abbiamo avuto piogge forti, purtroppo anche una vittima nel palermitano, nevicate abbondanti sull'Appennino. Attualmente sta ancora piovendo in Puglia, in Calabria, in Sicilia, ma il tutto va verso un netto miglioramento. Quindi ci attende un weekend che nel complesso, un po' in tutta Italia, sarà discreto. Domani ancora ultime residue piogge tra la Sicilia e la Calabria, e sempre domani qualche nuvoletta di passaggio al nord, ma poca roba. Domenica bella giornata in tutta Italia, e inoltre sarai contenta, Roberta, settimana prossima non solo il tempo rimarrà bello, ma anche le temperature riusciranno a guadagnare qualche grado. Davvero l'inverno farà un passo indietro settimana prossima. Felice con la Pasqua anche a Natale. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo. Ciao, a te. Comunque buon tempo a tutti. Ciao Paolo, noi ci risentiamo alle 22.